America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Ascoltiamo di nuovo lo scampanellio di Wall Street, una giornata diciamo un po' più incoraggiante, quella di ieri. L'indice Dow Jones ha chiuso al rialzo dell'1,30%, quota 11.153, ricordate che vi dicevo che eravamo scesi sul livello di 11.000, dunque ogni volta che si arriva su una soglia psicologica ci si domanda se verrà sfondata al ribasso o meno. Ebbene, ha tenuto. Che cosa è successo che ha riportato un po' di ottimismo fra gli investitori? Ma direi la chiave di lettura in questi giorni, in queste settimane, resta una chiave di lettura da binario parallelo. Binario parallelo formato da una parte dal rischio contagio in Europa e dall'altro rischio recessione o double dip, non solo in Europa ma anche in America o comunque a livello internazionale. Ecco, sui due fronti ieri abbiamo avuto delle notizie positive, incoraggianti. La Germania ha avuto un voto positivo per ratificare e potenziare l'FSF, e dunque questo apre a questo punto la strada per andare avanti e per dare concretezza, vorrei dire, alle parole del ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble, che aveva preannunciato che una volta stabilito, organizzato il fondo salva stati, si sarebbe dovuto pensare a qualche strumento per poter sfruttare meglio le sue dotazioni di capitale. Sappiamo cosa significano queste parole, significano ritornare a quella idea del veicolo esterno di cui vi parlai all'inizio della settimana, una buona notizia che aveva dato una forte iniezione di ottimismo al mercato. Dunque si riapre o comunque non diventa così problematica l'idea di lavorare per creare un super strumento che consenta di rassicurare il mercato. Sul fronte macroeconomico, quello della crescita, la crescita americana è stata rivista a più 1,3% per il secondo trimestre, quindi al rialzo rispetto a quello che ci si aspettava. Lo spettro di un double dip per ora si allontana. Le previsioni sono che oggi sarà una giornata così di transizione, ma mentre l'America, l'Europa si preoccupano di questo doppio binario di crisi, da una parte la crescita, il rischio recessione, dall'altra il pericolo di contagio, dalla Cina è giunta una notizia che ha preoccupato non poco gli americani. La Cina ha lanciato con successo Tiangong-1, che è il primo modulo per la costruzione di una stazione orbitale che dovrebbe essere completata nel 2020. I cinesi si muovono a una rapidità pazzesca. Pensate che qui in America ci vuole un anno, due anni per costruire un palazzo, un grattacielo, e magari da noi ce ne vogliono quattro, i cinesi riescono a farli in tre mesi, in quattro mesi. Quindi in questa corsa spaziale, ormai al 2011, ecco, in 8-9 anni, pensano già di avere la stazione orbitale terminata. Questa notizia non è una notizia da poco, perché la Cina di fatto comincia la lunga marcia nello spazio. La piattaforma di lancio è nel deserto del Gobi, è partito questo primo modulo spaziale che poi andrà a costruire, a formare questa stazione spaziale internazionale di Pechino. Vediamo un po' di dettagli. Questa navicella che è partita per lo spazio si chiama Palazzo Celeste, quindi ci si ispira così a vecchie tradizioni di questo straordinario paese. Presto a novembre sarà raggiunta dall'astronave Shenzhou 8 e comincerà questa esperienza della Cina, del dragone nel campo del docking, cioè dell'assemblaggio spaziale. Resta il fatto che mentre noi pensiamo a questi nostri problemi paralleli, crescita da una parte, pericolo di contagio dall'altra, mentre gli Stati Uniti hanno di fatto messo da parte alcuni importanti programmi spaziali, la Cina preme. Ieri si è voltata un'altra pagina di storia. The Amanda Knox trial counting down to a decision this week, and today her attorneys began their closing arguments, saying Amanda has suffered too long for a crime she did not commit. Today, Amanda's lawyer summing up the case, something he says has been tragic. It has come down to the final few days of this appeal. They're talking about the verdict on Monday. Passiamo a un fatto di cronaca. L'America si sta occupando di una cosa che ci riguarda direttamente. Amanda Knox. Ieri abbiamo avuto l'arringa finale dell'avvocato Carlo Della Vedova, l'avvocato difensore di Amanda, il quale ha detto che la ragazza è stata vittima di un massacro mediatico, la sua privacy è stata violata e lei e la sua famiglia hanno sofferto fin troppo per un delitto che la ragazza non ha commesso. È ovvio che Su questo ci si sono appassionati un po' tutti, perché resta il dubbio di che cosa sia davvero successo in quella notte del 1 novembre 2007, sono passati ormai 4 anni, quando Meredith Kercher viene assassinata. Adesso siamo in attesa del giudizio della Corte d'Appello, sarà lunedì. Questo weekend in America non si parlerà d'altro, e soprattutto lunedì non si parlerà d'altro, perché questa sentenza è molto molto partecipata dagli americani. Se ne parla un po' dappertutto. Voglio riproporvi quello che dissero alcuni importanti personaggi televisivi, inclusa Barbara Walters, qualche tempo fa. Amanda, the actual girl, just got a 26 year prison term in Italy for murder. And then the parents have spoken to a British newspaper and said that the Italian government police mistreated Amanda. Now the Italian government is indicting the parents for saying that. Right. It's such a crazy story, and only in Italy could this happen. Ecco, in questo caso Barbara Walters parlava del film che era appena uscito, è stato un film di un discreto successo, ma soprattutto voglio riproporvi una chiacchierata che vi riassume qual è la posizione della difesa, una chiacchierata che feci tempo fa con l'avvocato Carlo Della Vedova, appunto il difensore di Amanda. Credo che un argomento di riflessione debba essere il processo mediatico in genere, il fatto che oggi tutti i processi di una certa rilevanza vengono in via parallela, discussi nelle televisioni, negli spettacoli, sui giornali. Ovviamente si creano due processi, quello mediatico molto più veloce, e quindi si arrivano all'analisi delle prove e anche alle conclusioni, molto prima del processo giudiziale, che ha i suoi tempi, i suoi ritmi, le sue regole, ci vuole più tempo. Questo è successo anche nel caso di Amanda Knox? Assolutamente sì, perché sono state anticipate delle valutazioni che erano soprattutto in fase di indagini in televisione, con analisi spesso anche portate avanti da persone che non avevano diretto accesso ai documenti, quindi anche discutibile valore, e hanno comunque nell'opinione pubblica hanno creato un processo anticipato rispetto al processo vero. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Sylvia Robinson ci ha lasciato, questa straordinaria cantante, un'altra icona del mondo musicale americano, è morta ieri all'età di 75 anni. Dunque dedichiamo a lei e a questa sua straordinaria presenza nel grande mondo musicale americano, Love is Strange. Baby, my sweet baby, you're the one. Baby, oh baby, my sweet baby, you're the one. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going! America 24.